ballo un tango lento con il demonio a fianco, ramingo rimango raccogliendo una sfera nella quale vedo circoscritta la mia anima. La plagio rimane in me a mio agio, un cuore profondo grande come il mondo. Vorrei scrivere una canzone dolce per farti innamorare, eppure vedo qui me stesso giocare con un riflesso dell'occhio a guardare lontano nell'altro più vicino indietro. Rimango fermo, quindi rimango con in mano il mio cazzo, rimango per questo pazzo, rimango come se suonassi una chitarra senza amplificatore, rimarrò qui altre due ore, rimango con il coltello puntato a una vena mentre ti dico che sei una scema, decidi tu cosa debba fare, puntarmelo alla testa a morire. Ah, è questa la mia pistola, allora passalo un attimo. Oh, tranquillo, Bam, mi sparo in testa, ecco. Sono la chiavica che detesta questa stanza. Sì, lo ammetto, detesto stare solo mentre la gente intorno fa festa e avanza. Benvenuto nel nuovo millennio, qua si deve lavorare. Sti cazzi, io mica vado a lavorare per fare i mazzi del mio datore di lavoro. Io sono uno che ha le mani dall'oro, sono un poeta. Rimango qui, circoscrivo questo e circunnavico questa e circospeziono questa traccia. Anzi, la ispeziono tipo: dottore, mi passi un bisturi per favore? Ho qua un malato di cancro che devo curare dal tumore. Rimangerò qui ancora due ore a fare questa operazione. Speriamo mi venga bene, sennò il paziente dovrà andarsene senza un beat, senza un rene. Rimango qui, canto, disperato la tua assenza. Rimango senza una voce dentro la mia mente che mi fa mancanza. Sì, vorrei sentire più un concerto lirico, mica queste frasi qui.